esulti pur la barbara, per poco alle mie pene. Domani avranno termine, domani m'amerà la barbara. Si estinguerà fra poco.